Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È l'inizio di una nuova settimana da passare assieme. Un benvenuto a te che sei all'ascolto di Rock FM da parte di Giulio Caperdoni, Eclettica, tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20, poi disponibile anche i podcasting. Se vuoi il dettaglio lo trovi su myspace.com/eclettica. Una settimana questa che sarà caratterizzata da un solo film, ma da diversi autori per quanto riguarda gli Incipit. A Londra, all'inizio del mese di giugno del 1929, l'antiquario Joseph Cartaphilus di Smirne offrì alla principessa di Lucinge i 6 volumi in quarto minore dell'Iliade di Pope. La principessa li acquistò e in quell'occasione scambiò qualche parola con lui. Era, ci dice, un uomo consunto e terroso, grigio d'occhi e di barba, dai tratti singolarmente vaghi. Si destreggiava con scioltezza e ignoranza in diverse lingue. In pochi minuti passò dal francese all'inglese e dall'inglese ad una misteriosa mescolanza di spagnolo di Salonicco e portoghese di Macao. Nell'ottobre la principessa seppe da un passeggero dello Zeus che Cartaphilus era morto in mare nel tornare a Smirne e che l'avevano seppellito nell'isola di Ios. Nell'ultimo tomo dell'Iliade trovò questo manoscritto. Questo era l'incipit di L'Aleph di Jorge Luis Borges. Come mai va all'aeroporto? Deve prendere un aereo? Come l'hai indovinato? Ah, ho visto il suo bagaglio. Poi ho notato il biglietto aereo e ho fatto 2 più 2 fa 4. Allora dov'è diretta? Aspen. Va sugli Aspennini. Bellissimo. Già ho ricordato all'inizio di questo volume, il primo volume dell'intera settimana di Eclettica, già ho ricordato appunto dell'esistenza di myspace.com/eclettica, quindi mi rimane di ricordare dell'esistenza invece della lista nera per essere iscritti, alla quale basta inviare un mail a giulio@radiorockfm.com. Essendo iscritti si riceve settimana per settimana la playlist della trasmissione con alcune altre parole del sottoscritto, quindi aspetto email di chi ancora non fa parte della lista nera e dopo avervi fatto riascoltare gli Anonimo FTP vi lascio con questa cover del vecchio brano degli Alphaville da parte dei Youth Group, giovane band australiana. Let us die on, let us live forever. Don't have the power, but we never say never. Sinning in the sand. L'universo, che altri chiama la biblioteca, si compone di un numero indefinito, e forse infinito, di gallerie esagonali, con vasti pozzi di ventilazione nel mezzo, bordati di basse ringhiere. Da qualsiasi esagono si vedono i piani superiori e inferiori, interminabilmente. La distribuzione degli oggetti nelle gallerie è invariabile. 25 vasti scaffali, in ragione di 5 per lato, coprono tutti i lati meno uno. La loro altezza, che è quella stessa di ciascun piano, non supera di molto quella di una biblioteca normale. Il lato libero dà su un angusto corridoio che porta a un'altra galleria, identica alla prima e a tutte. A destra e sinistra del corridoio vi sono due gabinetti minuscoli. Uno permette di dormire in piedi, l'altro di soddisfare le necessità fecali. Di qui passa la scala spirale che si inabissa e si innalza nel remoto. Questo era l'incipit di Finzioni, la biblioteca di Babele, di Jorge Luis Borges. She wants to pass over this rack transfer like a burn trash fusion of blood. She needs her seventh year back, watching the last one rest on the surface. Just tell me, please, what's the matter with you? The difference between us. Just tell me, please, what's the matter with you? And them and me and you and me. There's nothing I can tell you when you have no place to go, no place to sleep. And do you know that there's no one in this town that can beat this gun? Don't mess with ghosts. And do you mind that she wants to pass over this wrecked transfer like a burn trash fusion of blood? Needs her seventh year back, and watching the last one rest on the surface. And just tell me, please, what's the matter with you? The difference between us. And just tell me, please, what's the matter with you? Amico Harry e io mettiamo da parte i soldi per aprire un negozio di animali. Che carino. Ho i vermi. Come ha detto, scusi? È così che lo chiameremo. Ho i vermi. Ci specializzeremo nell'allevamento dei vermi. Sam, come l'allevamento delle formiche. Che le prende? È un po' tesa per il volo? Qualcosa del genere. Un gruppo italiano che si è scelto un nome in danese, Dalit, il gruppo che rappresenta il nuovo progetto di Matteo Dainese, batterista degli Ulaanbaatar, in cui spunta anche la collaborazione di Enrico Molteni, bassista dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Siamo poi passati ad un gruppo che danese lo è a tutti gli effetti, gli Efterklang, appena ascoltati dall'ultimo EP, per passare poi con il prossimo ad un gruppo italiano che è innamorato di Marilyn, tanto da dedicargli sia il nome della band Mercy Miss Monroe e canzoni sia nei vecchi che nei nuovi dischi, come per esempio questa Gang of Blondes. I'll be missing you. summer 99, we were dancing barefoot, barefoot on the ground. We were drinking just lemonade, and now I'm coming clean. One girl with a band in the hand, one girl, one shot, she's the hell of the band. She said, darling, leave to see Jim the agent.